Allora, come promesso, eccoci qua, la presentazione di Le piscine terminali di Enrico Gabrielli, edizioni Edikit 2017. Prego JP e prego ciao. Gabrielli. Evviva, ciao a tutti e tutte, e siamo alla polveriera a presentare il primo libro della prima giornata del Festival di Letteratura Sociale. Festival è la quarta edizione, è il quarto anno, e non so se avete già detto in radio un pochino di cose della polveriera, a parte si dicono tutti i giorni, però lo diciamo anche a chi è qui fuori nel, ridiciamolo, a chi è qui fuori nel chiostro. La polveriera è uno spazio sociale occupato e autogestito da 5 anni. In questi 5 anni è stato fatto, oltre al Festival di Letteratura Sociale, altre penso centinaia, forse migliaia di iniziative musicali, culturali, di ogni genere, politiche di ogni genere. E è un periodo particolare per la polveriera, nel senso che si è trovata ad affrontare diversi problemi, da un annunciato sgombero a dei problemi di gestione del chiostro. Soltanto grazie all'autogestione e alla forza di tanti compagni e compagni siamo qui a fare questo festival e siamo a continuare a fare questo lavoro che facciamo da tanti anni. Il lavoro ovviamente è gratuito, nel senso. Autoprodotto, autogestito. Esatto, tutto auto. Quindi il festival, quarta edizione del festival, siamo alla prima giornata. Il programma l'avete un po' letto, poi continueremo a leggerlo per la radio e in generale per tutti. Qui siamo a presentare un libro che è Le piscine terminali di Enrico Gabrielli, che è qui accanto a me. Evviva. Ciao. Benvenuto. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Noi era un paio d'anni, il libro è uscito nel 2017, era un paio d'anni che dicevamo, ma Gabrielli ci portiamo al festival. E sì, alla fine eccoci, siamo qua e siamo molto contenti di averlo. Il libro non c'è. Attenzione, è uno dei pochi libri. È perché è passato troppo tempo, i libri si estinguono, hanno questo difetto. In realtà non è un difetto dei libri, è un difetto dell'editoria italiana, sì. Per cui un libro dopo 2 anni è un libro vecchio, quasi da macerare. E le novità sono novità per 20-24 giorni, insegnano ai librai. Poi dopo devono essere tolti dalla visibilità. Quindi è uno dei motivi per cui non abbiamo purtroppo le copie da vendervi, malamente, però quindi dovete ascoltare e fare tesoro. Esatto, fate mente locale, cercate di immaginarvi. Sì, è del 2017, per cui sì, 2 anni sono, per micro editoria sono tantissimi, sì. Esatto, anche perché è pubblicato con una casa editrice indipendente, sì, che è di Hit. Parecchio piccola, tra l'altro. Esatto. Parecchio piccola, insomma. Piccola. Sì. Allora, il libro. Parliamo il direttamente libro. Del libro, che dici? Sì. Ma, sì, se vogliamo parlare, se no, di... Ciao, buonasera. Salve. Perché ciao. In tutto questo è strano, perché parliamo sia alla radio sia delle persone vere. E è un po' strano. Sì. Soprattutto io stavo guardando prima, come te l'ho detto, insomma, c'è una quantità di barbe pazzesca. Vabbè. Sì. È proprio evidentemente l'epoca. È il 2019. Sì, ma io mi sento infatti... Vabbè, insomma. Ci ho provato, ma non vengono i cacchioni da rivoluzionario, ma non... la barba non mi è mai venuta fuori. Infatti invidio quella, quella sua. La sua è da quando ha 16 anni che la invidiamo noi. Infatti. Lo conosciamo da tutta la vita e lo invidiamo da tanto. Vabbè. Il discorso delle barbe l'abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso anche il discorso dell'autogestione degli spazi occupati, anche se ti ho visto contento di essere qua e questo mi ha fatto enormemente piacere. No, ma anche perché banalmente, come ti dicevo prima, anche un periodo, io sto tra Milano e Torino, insomma, che Milano adesso è bella, ci ho messo anni perché è una città abbastanza complicata, però adesso è molto bella e c'è un gran rigurgito dei fascini, insomma, per cui vedere un po' di sane bandiere, anche in qualche modo di antagonismo, come si diceva una volta, va bene, ti fa stare allegro, devo dire. Sì, dai. Bisogna venire in Toscana per vedere queste robe. Sì, mi sembra anche a me, no? Sappiamo di questi rigurgiti, sì, che sparsi per l'Italia si sommano tutti i giorni e siamo qui anche per questo, tendenzialmente per rispondere con cultura e socialità a quello che ci sembra la barbarie che c'è a giro. Beh, quindi senti, questo libro io me lo sono letto e mi sono divertito tantissimo. Io la prima cosa che ti chiedo, perché poi immagino che chi ti conosce ti conosca soprattutto per la musica, poi magari parliamo anche di quello, e, però anche come sei arrivato alla scrittura, un po' il tuo percorso che di musicista, di professione, mi sa. Sì, allora, i tour sono una cosa che magari ci sono musicisti qua probabilmente, sicuramente siete tutti musicisti o qualcosa di simile, ne sono certo. Io no. No, tu no. Però insomma, chi ha fatto, chi ha avuto esperienza di tour, insomma, comunque anche auto-organizzati all'inizio, poi dopo magari più professionali dopo, sa che possono essere divertenti, però la socialità compatta all'interno di un furgone o di una macchina a un certo punto può anche diventare un pochino complicata, perché comunque devi stare insieme a stretto giro, a stretto contatto, devi condividere la cosa. A un certo punto può essere che, che ti stanchi, e ognuno trova il suo modo per combattere questa cosa. Io ho una voce molto grave che aiuta a uscire fuori, a far uscire fuori tutti i larsen, e c'ho anche la sibilante, perché insomma si sente? Si sente bene? Chi lo sa? Sì, sì. Scolate la testa, per cui va bene, si sente. Io allora proseguo così, con la mia voce così. E, per cui durante alcuni tour, in particolare di Calibro 35, mi è venuto naturale trovare una valvola di sfogo con la scrittura, sostanzialmente. Prima scrivevo a mano, con un bel quadernino, perché disegnavo anche. Soltanto che vi garantisco che l'oscillazione di un furgone non è il massimo, poi dopo quando vai a rileggere quello che hai scritto, per cui a volte mi maledivo perché scrivevo delle cose e non riuscivo poi a capire cosa avevo scritto. E quindi ho cominciato poi a scrivere sul computer, e poi da lì in realtà le cose si sono assommate. Prima di affrontare in realtà la forma romanzo, che in realtà ho scritto adesso, ne ho in gestazione, uno l'ho finito e l'altro in gestazione un secondo. Lo so. È buono questo. Ma no, cioè, è buonissimo, figurati. No, in realtà è una, comunque so che è una vicenda mia personale, la questione della scrittura non è necessariamente una cosa che interessa a chiunque, però a me interessa personalmente, per cui lo faccio. Non ho la Mondadori, non ho nessuno dietro, per cui insomma lo faccio veramente in spontanea volontà. Però i racconti brevi sono un buon inizio, cioè banalmente anche proprio come dire, come forma di relazione con la scrittura, anche non ti dico in umiltà, però un po' è quello. Poi in realtà è difficile anche quella, la forma breve è molto complicata. Io quando mandai questo libro qua a Evangelisti, che insomma, che per me è un enorme pilastro, insomma è veramente un gigante. E lui mi disse: ti faccio sapere entro una settimana. Entro una settimana esatta mi ha fatto sapere. Mi ha scritto in realtà un bel po' di cose. Poi sono finite come prefazione, sono due righe soltanto in realtà nel libro lì. Ma in realtà quello che mi aveva confortato è che a lui funzionava come avevo in realtà ideato il sistema racconto. I racconti, questi qua, sono molto brevi, sono 17 in realtà, il numero che mi piaceva. Anche sono dispari, perché è un numero che ci piace a tutti, insomma. Sì, dai. A noi che siamo figli di Satana, insomma, il 17 è sempre stato bello. E sono sul modello di alcune cose, come ad esempio i racconti di Roald Dahl, che finirono come plot per una serie di si chiamava sceneggiato una volta, in realtà. Fine anni 70... che in Italia davano col nome di Il brivido dell'imprevisto, che ovviamente nessuno ha visto, penso. Io me lo ricordo che le davano all'ora di cena, ed erano in realtà tremendi, molto spesso basati su un ambiente molto piccolo, con pochi personaggi, spesso anche in contesto familiare, ma in realtà avevano sempre lo switch alla fine, no? Cioè nel senso la chiusura improvvisa che determinava il ribaltamento completo della vicenda. E questa cosa qua del ribaltamento alla fine di ogni storia, più o meno, è quello che insomma, è il concept complessivo. Si chiama Le piscine terminali, è un nome che un po' strano, però in realtà perché quasi tutte le storie finiscono all'inverso e come male. Sì. Tendenzialmente male. Tendenzialmente tutte male, sì. Esatto. E diciamo che sì, se c'è un filo conduttore, cioè il filo conduttore è evidente. Finiscono male, questo, sì. Sì, che forse è sì, anche le sensazioni che mi hanno dato sono appunto quelle di magari inizialmente divertirmi o pensare che il racconto sarebbe andato in una certa direzione, e poi dire e si tornava, cioè si andava verso un'altra direzione, quindi appunto è l'imprevisto. Poi sì. Uno dei cioè, uno dei, dei fili è quello anche della fantascienza, direi, o comunque del, della fiction futuristica, non sì, so come, sì, sì, no, come della, chiamarla. Ma... Della science fiction nera, in realtà, sì, più o meno, sì, quella roba lì. Sì, poi la fantascienza è, insomma, è una cosa che negli ultimi anni è un po' ripresa come tipo di anche di affezione, cioè di legame con quel tipo di scrittura, però insomma, quando lo leggevo io, perché sono un po' grandicello, era proprio di genere e il concetto di letteratura di genere in genere era sempre un po' negativo, insomma, giallistica, fantascienza, un po' così. Invece io sostengo che in realtà il campo da calcio, una volta che tu dai anche un sistema di regole e ci giochi all'interno, è anche divertente, insomma, quindi dici, è fantascienza. E poi una volta che hai detto che fantascienza, dentro puoi fare molto di tutto sostanzialmente, perché volendo anche un trattato di sociologia fantascienza, insomma, dipende come la concepisci. Per cui sì, è fantascienza nera, almeno io l'avevo, mi ricordo, delineati così: 17 racconti di fantascienza nera e dell'imprevisto. Io editorialmente, come vedi, ci so fare. Ci sai fare comunque, sì. Infatti ci sono molti libri qua in vendita oggi. Evidentemente ci so fare di brutto. Sì, al di là di questa brutta faccenda. E, no, magari troviamo anche un'indicazione da dare ai nostri... Sì. In realtà, su dove trovare questo libro. Sì, se alla fine di questa chiacchierata vi interessasse, in realtà basta cercare su internet Le piscine terminali, e di Kit editore, sperando e poi che l'editore risponda. Esatto. Magari contattando. Se no, mi contattate personalmente, vi faccio una fotocopia del libro. Si fa anche è buono. Sono 160 pagine, insomma. Una buona fotocopisteria. Ci sono anche dei disegni, tra l'altro, per cui insomma, sì, poi ci arrivavo già bruciate tutte le domande. Poi l'ho scritto troppo piccolo, cioè l'ho stampato troppo piccolo, quindi non ci vedo niente. No, appunto, volevo chiederti dei riferimenti, un po' i tuoi riferimenti letterari, ma l'hai già detto, perché al di là della celebrità internazionale, intergalattica, sui racconti per ragazzi, vabbè, non sono nemmeno racconti... Cioè, sì, diciamo, letteratura per ragazzi, però con tutta la sua grandezza, ha scritto anche altro che sono i racconti brevi, quindi... Ti volevo chiedere anche della forma del racconto breve, ma anche questo l'hai già detto da solo. Sì. E quindi, se vuoi, possiamo entrare proprio in alcuni dei racconti che sono tutti brevi, alcuni molto brevi, anche due pagine, sì, o tre pagine, altri un pochino più lunghi. Sì. Se ti va di... Ma allora, sì, perché no? In realtà... Io ci ho anche... Questa è la sorpresa. Sì, no, le letture dei libri mediamente, non so che rapporto avete voi con questa roba, ma a me mi annoiano da morire. Anche a me, però sembra che piaccia a volte alle persone. Se fanno, leggono così, però è proprio la lettura spesso è... Bisogna saperci fare. Magari io potrei anche leggere, magari potrei anche riuscire a tirar fuori anche un lato di me che non conosco, ma... Nel caso specifico ho fatto una cosa molto più semplice. Avevo fatto chiamare due amici miei che sono degli ottimi lettori e ho fatto dei trailer audio. Via. Che mettevo in play e faccio vedere. Ci sono anche dei disegni, in realtà. Io posso girare il computer così magari voi li vedete pure da qua. Bello. Sì. Volevamo proiettare, però ci siamo resi conto che è giorno. E quindi sarebbe stato... Ecco, vedete qua qualcosa? Si vede? Ah, tolgo le bottiglie, i bicchieri? Le bottiglie non aiutano, forse. Ma per me non vedono niente, però faranno finta. Non vedete niente? Sì, ma sì, ma poi sono così. Dicono. Scherisco un attimo, va bene. Allora, questo racconto qua è un... Vabbè, comincio da questo tanto perché in realtà era già impostato. Allora, il racconto si chiama Tatbu, che è una crasi tra tatu e tabù. Allora... Io l'ho scritto 2 anni fa, questo. Io me lo ricordo bene, invece l'ho letto ieri. Perché sei molto più fresco, sì, di me con questa faccenda qua. Però la vicenda è la vicenda di un personaggio all'interno di una ipotetica società così astrattamente futura, dove il sistema delle classi è molto particolare. E quindi, ma prima che vi dica altro, vi faccio sentire questo pezzo qua, così almeno vi fate un'idea. Ma c'è anche una sigla, tra l'altro, cioè, capito? Ci abbiamo tutto. Almeno facciamo pubblicista queste cose. Ce la faccio? Chi lo sa? Lui era un discentista di terza, prossimo alla seconda. In gergo si poteva tradurre come appartenente a una classe sociale disgraziata. Le classi ai suoi tempi erano stabilite per età in una traiettoria sociale obbligatoria. Le regole planetarie di quel complesso sistema furono decise di comune accordo dai parlamenti del blocco occidentale e orientale per ovviare all'irrisolvibile problema della discriminazione tra i ceti. Il funzionamento in realtà era semplice. Si partiva da un'infanzia orrenda in prima classe in istituti di crescita e poi, procedendo con l'età, si ascendeva verso una graduale miglioria della qualità della vita fino alla decima classe che, come un premio per le fatiche passate, rappresentava la vetta dell'agio. Il cambio di classe di appartenenza scattava ogni 5 anni nelle comunità dell'Occidente e ogni 7 in quelle dell'Oriente. Una volta raggiunte le classi alte e generato un figlio, questo partiva dalla classe del genitore per poi procedere inversamente verso un graduale declassamento. Così i figli nati nel benessere, come sana dottrina interiore, avevano vite sempre più difficili. Viceversa, i figli nati da classi inferiori avevano vite sempre migliori. Dunque le masse erano un flusso ininterrotto di persone ascensiste e discentiste o declassiste, come dicevano altri. Era anche normale desiderare di relazionarsi con un compagno o una compagna ascensista piuttosto che discentista, e poco importava di che classe fosse, bastava fosse in prospettiva di ascesa. Ma si sa, l'amore devia dalla buona norma e quindi una coppia di discentisti, presa dal sacro fuoco del sentimento, tutto sommato avrebbe gioito di una prole assai felice, di sicuro più felice di loro. Tutta questa architettura sociale andava di pari passo con la conclusione dell'umana parabola vessatoria chiamata lavoro. Di fatto nessuno lavorava più. E chi lo faceva era solo per svago o per cosiddetta cultura personale, era il governo stesso ad assegnare il fabbisogno standard nel modo previsto dalle classi. Aldi, discentista di terza, versava in pessime condizioni e non aveva sufficiente denaro per sostenere multe di nessun tipo. Forse anche per questo non se lo era sposato nessuno, e in più i suoi vecchi genitori abbienti erano morti da anni per una epidermis globularis. Un'altra norma antipatica emessa una ventina di anni addietro diceva che nell'impossibilità di pagare debiti con il governo e in caso di appartenenza accertata a classi inferiori alla terza, si poteva essere inseriti di turno in un allevamento ministeriale. E non tragga d'inganno questa apparente innocua proposta di lavoro. Dopo i 4 tracolli finanziari, il crescente attivismo verso l'autoestinzione volontaria e le scelte prepotentemente vegane degli organi governativi, si era giunti alla sostituzione di allevamenti tradizionali con più etici allevamenti umani commestibili. Così facendo, ci si accollava la responsabilità secolare dei tanti animali innocenti costretti a macellazione intensiva dalle macroindustrie. Ai giovani si raccontava di come il presidente Joshua J. Graz vide incolonnato in una lunga freeway pneumatica durante un'estate cocente un convoglio che trasportava maiali. Lì nacque il celebre detto: il fetore dell'animale libero è segno di salute, quello dell'animale in gabbia di malattia. Da allora divenne più tollerabile la vista di un tir pieno di uomini, donne e bambini che 150 povere galline in gabbia. L'uomo d'allevamento, lasciato alla completa vita brada, in grandi centri di stoccaggio e smistamento, veniva fatto crescere senza cultura, senza alcun diritto. Il risultato era stata la complessiva diminuzione della popolazione civile, l'aumento di quella commestibile e la graduale scomparsa di obesità. La società moderna era ossessionata dall'ideologia animalista, con punte di cieca adesione dittatoriale. Finché certi ascensisti con elevate possibilità economiche non cominciarono la caccia all'uomo libero, per via della carne più pregiata e per il gioco di cattura urbana infinitamente più stimolante. Ma se tali bracconieri venivano colti in flagranza di reato, scattava il carcere o, più spesso, la pena di morte praticata mediante cannibalismo crudista. Mangiati vivi, cioè, da insigni legislatori scelti. Beh, possiamo continuare. Dai, sì. Allora, il personaggio procede, anche. Questa è soltanto, diciamo così, la contestualizzazione del mondo in cui vive. e quindi non c'è il lavoro, le classi sono preordinate e esiste, insomma, l'allevamento umano commestibile, insomma. E via. Cioè, è una possibilità, insomma, una delle tante possibilità. Alla fine lui gli arriva una multa che non può pagare perché improvvisamente vengono dichiarati illegali i tatuaggi mediante l'inchiostro sul corpo umano, perché andrebbero in conflitto con i sistemi, non so, non si capisce bene, però diventa come legge questa cosa qua. E lui per fortuna ci resta soltanto su un braccio, quindi l'unica soluzione che trova è quella di tagliarsi il braccio sostanzialmente. Alla fine della fiera, sì. Sì, esatto. Questo è un racconto un pochino più così, un attimo più sociologicamente un pochino più crudo. Però ci sono, ce n'è uno ad esempio, anzi questo magari ve lo leggo io, dai, perché messo qua. Che è stato uno dei primi che è venuto fuori, perché nella casa a Milano in cui stavo c'è un ascensore che arriva al terzo piano, si apre e poi si vede un cortile dove c'è una finestra. E da questa finestra c'era una persona che guardava la televisione dalla mattina alla sera. Poi la televisione è già un oggetto un po' desueto oggi. Però insomma, vedere tutti i giorni che tu arrivavi lì un teledipendente vero dalla finestra era una cosa che comunque mi... Curiosa, certo. Curiosa, sì, anche perché io sono stato un teledipendente. Io dal 96 al 90 8, ho avuto una media di 9 ore di televisione al giorno. Sì. Ora, la dipendenza, certo, adesso si esprime in altre forme, certo, però esisteva questa, infatti era una delle grandi piaghe, la teledipendenza, termine che ormai come la globalizzazione sono termini molto antichi. Però per questo motivo qua io ho scritto questo racconto che si chiama 96, il 96 in realtà, che era anche un canale, in realtà era il canale dei preti. Sì, sì. Che davano gli 144 la notte, tra l'altro. Sapete cosa sono gli 144? No? Non sapete cosa sono gli 144? Questo è interessante. Nessuno sa cosa sono gli 144. Mm. Gli 144 erano i video in rotazione con le donnine che si spogliavano e il telefono aveva sempre il prefisso 144. Cioè, quindi, telefono a pagamento, in realtà erano chat erotiche online con questa cosa qua. Però appunto c'era... non mi ricordo come si chiamava, è il 96, però appunto il canale anche era quello era una roba di Milano, però che c'era sta cosa, era dei preti, tutto il giorno facevano le preghiere e poi la notte c'erano questa ruota riguardante, perché tanto gli anziani magari non guardavano più quelle robe lì e ti ci imbattevi tu che eri un giovinastro. Oppure anche gli anziani comunque aspettavano forse tutto il giorno le preghiere, sì. Per poi... Però il meccanismo strano era che essendo una rotatoria ti affezionavi magari a una ragazza in particolare e tu aspettavi che, certo, che tornasse, guarda, dopo magari 45 minuti ritornava. Vabbè, comunque adesso, e quindi adesso se riesco a ripescare questo racconto qui, è una cronaca abbastanza fedele di quello che era il palinsesto televisivo di quel periodo, perché me lo ricordo, ahimè, me lo ricordo molto bene e me lo sono stampato ormai nella coscienza, ahimè. Io sono proprio figlio di quella cosa là, perché in realtà io sono del 76, per cui mi sono fatto il passaggio alla fine delle ideologie, come si diceva così, insomma, nel 90 quando è finito il Partito Comunista, poi, però gli anni 90 sono stati gli anni della grande ascesa delle private, certo, delle televisioni private, Berlusconi, Docet, insomma, per cui io me ne sono proprio preso in faccia, proprio in qua, me ne sono goduta in pieno, ragazzi, proprio qua. Io tutti i 25 anni di questo figlio di... me ne sono visti tutti. Comunque, allora... Giuseppe ha l'abitudine di mantenere il volto immobile davanti alla televisione, un piccolo Grundig di quelli che quando si accendono sfrigolano. Giuseppe non fa colazione, non fuma e non si lava. Per guardare la televisione si siede su una sedia perché la sua stanza non ha divani. Vabbè, vado avanti. Per Giuseppe la sedia vuol dire essere svegli e il letto vuol dire dormire. In mezzo non c'è niente. La sedia ha un cuscino in gomma piuma foderata, macchiato e sbriciolato, con la quale ha lo stesso rapporto che si avrebbe con il luogo di lavoro. La televisione è accesa sul Rai 1 da almeno 3 ore. Adesso sono le 2 del pomeriggio e c'è Solletico. Su uno sfondo computerizzato il teschio Osso parla con Mauro Serio, proponendo un quiz telefonici per ragazzi. Giuseppe aspetta l'arrivo di un cartone animato preciso. Una di quelle cose che non piacciono a tutti, si chiama Raan ed è la storia di un improbabile biondone preistorico. Cosa può fare De Rocco stavolta? Chi deve salvare questa puntata? Il tempo di due domande e come un lampo l'avventura si esaurisce senza dare risposte soddisfacenti. Salto sempre. Compare un'annunciatrice Rai. È il momento di affinare la pratica con il telecomando, cambiando canale senza tagliare nessuna frase delle persone che stanno parlando. Come un tiro al piattello alla parola, Giuseppe punta alla televisione e cambia dopo andrà ora in onda un zap. Mugugna ha cambiato su Italia 1. Mattina e pomeriggio Rai. Dal tardo pomeriggio fino a tarda sera Fininvest. È ovvio, altro ritmo, una specialità dell'intrattenimento serale tutta diversa. Pubblicità. Alluminio doppia forza, carta Visa, col cane a cui la madre mette le cuffie perché la figlia suona il violino da cani. Lo spuntì e il prosciutto cotto e il conforto di sapere di non essere soli al mondo perché Ceres c'è. Ogni 30 secondi una detonazione. Sulle private i ritmi sono accesi, accattivanti, fremono i simboli sociali. La Rai è più conciliante, più italiota, più panzona. Italia 1 invece è sempre stato un comando promozionale, un bombardamento alleato. Giuseppe è una città rasa al suolo da tempo incalcolabile, per cui non si cura degli spot stereoidei. Non si reputa affatto un consumatore perché pensa che nessuno dei prodotti lo riguardi. Ed è per lui come essere su un treno velocissimo a guardare fuori dal finestrino. E poi, se c'è un incendio in lontananza, nessuno può farci niente. Cosa faresti altrimenti? Lanci del Nescafè sulle lingue di fuoco? Metti dell'enfasi intimo sulle ustioni delle vittime? Attraversi il vetro sigillato da un potentissimo Saratoga? Speri di avere un alito così congelante da estinguere le fiamme grazie alla polo, il buco con la menta intorno, ma sotto il libero simbolo di quell'altro polo sono presentati i candidati di Forza Italia, Alleanza Nazionale, alla lista CCD e CDU, perché ci sono le elezioni in aprile. Ci sono anche i 2 miliardi di lire in palio dalla lotteria nazionale a maggio. E non c'è più niente a giugno, perché in estate cambiano i palinsesti e rallentano le tentazioni alla dipendenza da immagini per via del caldo. Festival bar a parte. C'è più nostalgia in estate, dunque più voglia di cartoni animati. Giuseppe guarda e cade di... Cioè, poi lui c'ha... Questo personaggio c'ha... Di tanto in tanto cambia lo sguardo e a destra e a sinistra delle cose le vede, c'è un elenco telefonico. A un certo punto però cose strane succedono. A riportare Giuseppe nell'irrealtà ci pensa all'inizio di Mai dire gol di lunedì, con la Ferilli e Luttazzi che vanno a bussare un portone. Gli apre Claudio Lippi e parte il ballo del Bar La Fuse. Memorabile la puntata con Frassica, poi il principe Carlo Giovannelli che dimostra come nel bon ton si taglia una pera con forchetta e coltello, salvo che poi la pera cade a terra e viene raccattata con le mani. Il conte Uguccione allo stadio della Fiorentina che urla scopare, scopare, scopare. Il cinare e la carciofa spagnola, la rubrica Un uomo, un perché, dove tutto all'insegna della puttanata sardonica. Lo schermo flickera, le immagini sono sempre più sgranate. Un tale Betello, giornalista del TG1 Mattina, è afflitto da dislessia senza precedenti. Associazione maschiosa, primo minestro, branzo di lavoro, fra poco Crodi, in collegamento con l'aeronautica. L'orifereggia, saranno impegnati nella trasverta. Autorezza l'uso locale, tutto vero questo, non è un'invenzione. Ora Betello è grande quanto Giuseppe, non più una dimensione. Comunque, fondamentalmente, piano piano Giuseppe rimpicciolisce sempre di più. La televisione diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande. E quindi, insomma, okay. Finisce. Finisce. Come insomma, vado avanti. Giuseppe, con un sforzo sovrumano, tenta di alzarsi dalla sedia. Si solleva in aria di qualche centimetro e mette uno stanco ronzio, ma senza previso alcuno sopra la sua forma esile, cala un'immensa mole. Bam. Sostanzialmente Giuseppe è una zanzara, ecco. Almeno questo Giuseppe è non è un teledipendente vero e proprio, ma è una zanzara che sta guardando la televisione da ore e ore e ore, ore, finché probabilmente il proprietario, che credo abbia un nome tra l'altro, non ce l'ha. Volevo mettere il proprietario della televisione, lo schiaccia sostanzialmente, ecco. Di questo tipo di racconti ce ne sono un paio dove si comincia che sembra una cosa, poi in realtà si gira completamente al contrario e si capisce che è un'altra cosa, insomma. Cioè, spesso anche un animale, sì. Appunto. Esatto, sì, sono di animali, ce ne sono tanti, ce n'è un paio di questi ribaltamenti di prospettiva, insomma. Una cosa che, tra l'altro, come diceva il buon vecchio Vangelisti, il Frederick Brown insegna, insomma. C'è un famoso racconto che si chiama... La sentinella, se non sbaglio, che tutto quinto l'ho visto dal punto di vista dell'alieno, insomma, però poi si capisce dopo che è l'alieno, insomma, non... però vuoi chiedermi qualcosa? Se no io mando ancora qua contributi dalla BAFTA. Ma... Poi mandala un altro, si continua a chiacchierare così. Beh, e finché poi a un certo punto non ci sto operando malamente, esatto. Perché tanto succederà, Nel frattempo partono le sigle da sole, perché in realtà ecco l'unica grande cosa che posso dire da musicista è che mi posso fare le sigle da solo, cioè io mi faccio le musiche anche, mi faccio tutto quanto da solo. Questa è una roba che appunto uno scrittore immediatamente non può fare. E io soltanto in questo posso reputarmi leggermente più fortunato, per il resto vabbè, no. Insomma, lascia fare. Beh, allora un altro racconto, che questo è un pochino più strano, più complesso, anche uno delle più, forse anche delle più articolate come tipo di concezione. Io mi sono appassionato molto del positivismo, degli scienziati del periodo del positivismo italiano, e ce n'è uno in particolare che magari tutti conoscono in astratto, ma così un po' en passant, è un signore che si chiama Lombroso. Lombrosiano è un termine insomma che ormai si è usato anche a sproposito per definire non cose positive. È uno scienziato che ha fatto tante cose e che purtroppo, ahimè, non ne ha beccata neanche una. E questa è una verità di fatto. Io ho a casa l'Atlante criminologico, dove ci sono dentro casistiche di tipi di criminali che vanno da, non so, dal criminale meridionale al criminale sardo, al criminale calabrese, al criminale politico, agli anarchici che sono... avrebbero nella sua idea, ma non era lui soltanto, la frenologia in realtà concepiva questa cosa un po' in maniera diffusa, che la conformazione comunque e anche la provenienza genetica o comunque familiare determinasse una garantita via criminale, insomma. Un altro scienziato che in realtà era una persona che lavorava più o meno nello stesso periodo, che qua a Firenze tra l'altro ha fatto tante cose, si chiama Paolo Mantegazza, è stato il primo igienista italiano, ma oltre che igienista è stato anche un botanico, e lui ha scritto anche uno dei primi libri di fantascienza italiana, che si chiama Anno 3000, un sogno, più o meno nel periodo in cui Vernet scriveva il suo libro di fantascienza su Parigi, Anno 2000, insomma. E entrambi erano accomunati da questa idea eugenetica del fatto che comunque il criminale è nato così, quindi la cosa migliore da fare è sopprimerlo alla nascita subito, perché no? Del resto non si sa mai, insomma, come disse Benigni, può nascere robaccia in relazione alla nascita di Andreotti. Se qualcuno non ha visto tutto Benigni primo, lo vado a vedere ora, perché anzi se ne vada da qua e vada subito a vedere. Andate a casa. Si capisce, sì. C'è lui che dice questa cosa. I genitori di Andreotti, prima che nascesse, fermi, può nascere robaccia. Questa è una grande cosa che, insomma. Però comunque questa storia qua è la storia di un'altra delle grandi passioni di Lombroso nella fase finale della sua vita. Lombroso ha scritto nel 1894 un testo che si chiama... non mi ricordo, spiritismo e qualcosa del genere, insomma. Perché una cosa tipica di questi scienziati qua era anche quella di non escludere niente, e quindi studiavano anche il fenomeno paranormale come se fosse una possibilità, insomma. E quindi ci sono fior fiori di scienziati, incluso, non so, Schiaparelli anche, tanto per dire uno, che facevano sedute spiritiche con tanto di verbalizzatore presente e persone anche illustri e comunità scientifica vera e propria, per vedere le possibili reali tangibili effetti del medium, insomma. E c'era una medium in particolare che si chiama Eusebia Palladino, che è stata una medium storica, insomma, del periodo in cui c'erano questo interesse. Era una analfabeta campana che probabilmente ha coglionato tutti quanti, io ne sono certo. Era una prestidigitatrice, diciamocelo, probabilmente. Però insomma Lombroso, dopo che vide un piatto di farina, e nella penombra, queste cose si svolgevano sempre nella penombra, dove c'era un baldacchino alle spalle, perché questa cosa era specificata dall'impresario del medium X, in questo caso si chiamava signor Chiaia, che dava delle esposizioni per cui la seduta spiritica andava fatta con determinate caratteristiche, doveva essere fatto a lume di candela, a volte anche in penombra, quindi non si vedeva niente, che vuol dire che potevi fare che cazzo ti pareva. E dietro, alle spalle del medium, ci doveva essere in realtà una camera nera con un drappo nero, vuota, evidentemente ci piazzavano le comparse che facevano cose. Però in questo la medium veniva legata, veniva tenuta stretta per mano dagli altri scienziati che gli stavano accanto. E tutto questo si svolgeva nell'arco di tempo molto preciso, insomma sono cose che venivano fatte nell'arco di un'oretta, non di più, e venivano fatte a tempi regolari, per cui non so, stavano tre giorni in un albergo, in un hotel, prendevano una stanza e facevano questi esperimenti tutte le mattine per tre giorni di seguito. E quando Lombroso vide un piatto di farina, perché avevano messo anche un piatto di farina, non so perché, esattamente, un grosso piatto, un contenitore di farina, rovesciarsi completamente senza far fuoriuscire neanche un granello di farina, lui si convinse che questi fenomeni esistevano. Cioè ne fu avvinto, perché lui fu sfidato proprio dall'impresario di questa medium a vedere che questo, lui però era scettico, come succedeva, vide questo prodigio e ne rimase avvinto, perché da lì in poi scrisse un bel po' di cose che poi sono pubblicate postume. Qui insomma, questa cosa qua è una roba che ha ispirato questo racconto in cui il signor Mantegazza inventa una macchina per andare nell'aldilà e vedere dall'interno cosa se questi fenomeni ci sono veramente o no. Cioè, in realtà è un paradosso molto macchinoso, sì. Qui sono un po' esagerato. Non è soltanto nel mondo dei morti, ma nel mondo dei morti anche andando un po' indietro nel tempo. Sì, esatto, indietro nel tempo alla prima grande seduta importante, quella del 1892, all'Hotel Ginevra di Napoli, che è documentata in realtà nel dettaglio. Per buona parte di quello che succede in realtà è tutto molto, molto preso da queste verbalizzazioni. Anche la conversazione che c'è all'inizio in realtà sulle donne che fa Lombroso, che come potete immaginarvi, insomma, lui dice cose assurde, ma è dell'epoca, insomma. Cioè la donna, i vestiti della gonna lunga, in realtà è la donna che prende in prestito l'iconografia sacerdotale maschile per porsi allo stesso piano, perché è evidente che la donna allo stesso piano non c'è. Quindi in realtà la cosa bella è che a beffare questa gente è una donna, perché in realtà è una medium donna, pura analfabeta tra l'altro. Per cui è, ecco, comunque sono andato un po' oltre. La storia si chiama Eteretaco, perché poi prende in prestito da un termine che Mantegazza scrive nel suo libro di fantascienza, veramente, che si chiama l'ho detto prima, però la macchina con cui viaggia nello spazio si chiama Etaco e qualcosa. Io ho preso un pezzo di Etere, okay. Etaco, l'ho messo insieme, è andato a fare questa cosa qua. Vabbè, faccio vedere sta roba qui. Dai, vai. Poi proferì con voce cerimoniosa le seguenti parole. Se non parto dall'inizio, però non. Lombroso, strascicandosi, si posizionò a debita distanza. Mantegazza, seduto nella postazione di guida, puntò il dito sulla tavola chiudendo gli occhi. Poi proferì con voce cerimoniosa le seguenti parole: spiriti del passato, vi prego di darmi un segno della vostra presenza. Nel silenzio ci fu un tonfo sordo provenire da uno degli angoli bui del fondaco. Dove siete, spiriti del passato? Mantegazza lasciò che l'indice componesse lettera per lettera una frase, e il risultato fu quanto mai criptico. Abbiate i dogmi. Lo scienziato, sul suo eteretaco, immise l'enigma attraverso le leve e guardò negli occhi l'insigne collega sprofondato su se stesso. Gli sorrise e l'istante dopo sparì. L'attonito Cesare Lombroso restò a guardare il punto dove prima era il volto di Mantegazza, poi scricchiolando si alzò e con la giannetta rimestò l'aria. Quando a fatica ritrovò le parole, anche se ateo convinto, dalla bocca gli uscì la seguente frase: Dio mio, abbi pietà di noi uomini. E vabbè, eccoci, siamo di nuovo in media stress. Grande, mi piace la tua partecipazione, bella. Assolutamente, tutti gli ascoltatori di Radio Wombat non possono vedere adesso, c'è cioè Samir con noi che ha un cappello, un vecchio fez, ed è sicuramente il cappello più bello che ci sia di tutta in Firenze, chiostro, probabilmente, sì, secondo me, sì. Allarghiamoci pure. Probabile, ragione. è la risata, però. Bellissimo. Ti porta con sepe per il baratro. Va bene. Guardavo l'orario perché sai, io c'ho il treno, ma tanto insomma. Chi io sono? Ma voi come va? Tutto a posto? Siete ciao qua? Ragazzi. Siete evviva. Presi bene? La grande, dai, questo è quello che volevo sentire dire. D'altronde, ragazzi, siamo qua a fare cultura. Insomma, la cultura adesso è anche un po' divertente, se no. Vai, Lorenzo, dici tutto. Provo a farti una domanda. Vai, provo. No, ma non una cosa che pensavo di trovare, invece, come è tutto imprevisto, non l'ho trovata. È la musica, poi, alla fine, non c'è. C'è soltanto a un certo punto un violinista che fa casino perché sì, viene impossessato da un suo ex compagno di classe che lo bullizzava. Però è l'unico, mi sembra, momento in cui appare uno strumento musicale o... Sì, è l'unico caso, sì. Quella storia, tra l'altro, è una storia che io personalmente è una roba che non so se è successo a tutti. Vi è capitato mai di andare, non so, in un concerto o in una gara atletica, non lo so, e guardare quello che sta facendo quella cosa là e, a parte immedesimarci, sì, ma dirsi, ma se io improvvisamente fossi al suo posto, ma che faccio? A me questa cosa mi è successa un casino di volte. Insomma, per esempio, da musicista mi capita, non so, forse da quando sono piccolo, che vado a vedere un concerto, vedo una cosa sul palco che evidentemente non so fare, e mi viene, ma non so, mi viene questa strana forma di transfer, per cui però, cioè mi viene il transfer, mi viene l'empatia allo stesso tempo, però mi dico, aspetta, se fossi lì però non so se vorrei fare questa cosa qua, per cui da questa cosa qua è nato un racconto che è la storia di un signore molto molto molto disgraziato, insomma, diciamo così. Vive con la madre, c'ha 50 anni, sta evidentemente a Milano, perché in realtà è proprio ambientato a Milano, cioè un po' nell'appartamento dove vivevo prima. E lui ha un talento sovrannaturale, che è quello di immedesimarsi nelle persone. Cioè, nel senso che io guardo te e improvvisamente divento te. Cioè, nel senso, io passo dentro di te. Quindi lui, che ha avuto una vita di bullizzazione scolastica tremenda e che fondamentalmente non è mai riuscito a fare niente. Scusa, non so, guardavo te, no, Eugenio, ma no. Sei un caso. È peccato. Perché lui, potevo dire a lui, ma c'ho il palo davanti. Perché, e quindi lui meticolosamente va a beccare, tanto è nella fase finale di questo percorso che va avanti da anni, tutte le persone che a scuola, le medie, gli hanno rovinato la vita. Ci si immedesima nei momenti clou delle loro performance e gli fa fare dei disastri. Nel caso specifico c'è un suo compagno che è diventato un grande violinista. Lui va al concerto del grande violinista, si immedesima al grande violinista e gli fa combinare un macello. Sostanzialmente gli fa proprio... Sì, cioè, mentre suona improvvisamente questo... Lui si immedesima in quello e non sa suonare, per cui questo improvvisamente non sa suonare più perché è l'altro, no? E poi scaglia il violino contro le prime file, le vecchiette con la crocchietta blu, insomma. E la fa... poi torna a casa e fa una X sulla fotografia. E poi c'è rimasta soltanto una, che è un tale Boschi, se non sbaglio, tra l'altro non mi ricordo, una cosa del genere, che tra l'altro fatti e nomi sono puramente casuali, che è una deputata, o comunque una prossima parlamentare di un partito che è evidentemente leghista, insomma. Ci si immedesima e le fa dire delle cose tremende. Sì. E finisce in bagarre, ovviamente in casino. Se non che poi lui, però, finito tutto questo percorso di vendetta, vede in sala, da leghista qual è, una conduttrice televisiva molto famosa, di quei programmi tipo da Barbara D'Urso, insomma, a cui le svela di essere uno con questo talento qua. Allora lui va in questo programma televisivo e fa una prova in diretta con una scimmia. Quindi si immedesima nella scimmia e riesce a fare opporre il pollice alla scimmia, che diventa un caso mediatico incredibile e poi diventa famosissima, eccetera, così. Se non che la madre anziana, che in realtà è un'arpia ed è quella che fondamentalmente ha impedito lo sviluppo sano e naturale di questa persona qua, una volta si capisce alla fine del racconto, quando lui andrà in diretta televisiva al Dave Letterman Show, in una dei massimi possibili proprio esposizioni televisive, quello che proprio sancirà è veramente il miracolo, un po' alla Uri Geller negli anni 70, sarà la madre stessa che si rimedesimerà nel figlio, perché è anche lei aveva il talento, e gli rovina completamente il grande effetto finale. Ecco, questo in realtà, non so se sono riuscito a spiegarlo, perché veramente è più complicato a dirsi che a leggersi. Questo si chiama sindrome di immedesimazione, questo racconto qui. E quindi, insomma, è per tutti quelli che hanno o subito bullismo a scuola oppure hanno avuto una madre un po' così. Comunque anche in questo la musica comunque non c'è, no. E c'è un motivo, no? Ti viene così, sono venuti così, non... Ma guarda, non c'è un motivo in sé, è proprio la... è che non... la musica c'ha già una sua roba. No, anche perché in realtà una cosa che io detesto veramente tanto, questa è una proprio di mia di pelle, io odio da morire i musicisti che fanno libri. Io sono in questo caso qua, poi io tutti gli amici che ho, quelli un pochino più famosi, c'hanno tutti quanti anche i libri che sono usciti con fior fiori di casa editrice, sì, insomma, cioè penso a insomma, è inutile che vi dico qua i nomi, ma ne ho a bizzeffe, insomma. Ah, anche te pubblico il libro? Sì, ma per come? Ma con, ho un Audi, Mondadori, ma, no, io ho trovato questa qua, che in realtà è stata proprio l'unica. E, per cui in realtà non so, sono anche molto autocelebrativi in genere i musicisti che scrivono libri, per cui mediamente ho cercato, cioè non mi è venuto naturale non parlare. Anche perché non credo che sia neanche interessante. Io libri musicali generalmente, anche non so, biografie di musica, queste sono una rottura di scatole formidabile proprio. Vuole il nostro regista chiacchierare? No, c'è qualcosa? Non ti volevo mettere in mezzo, però ti ho fatto. No, però riguardo a questa cosa della musica, in realtà è interessante, perché comunque poi noi siamo partiti dalla fantascienza, cioè la base, che giustamente poi tu dici che è un campo da calcio, o comunque insomma un campo in generale, anzi leviamo il calcio, un campo in generale, campo. Dove mettiamo delle regole, e poi quel che succede succede. Poi in realtà secondo me c'è una base di partenza della fantascienza. Tu giustamente dicevi che può anche essere un trattato di sociologia, opinione personale, forse è proprio la base, la sociologia secondo me della fantascienza. Sì, adesso soprattutto secondo me. Esattamente, adesso soprattutto anche nella sci-fi della televisione, cioè Black Mirror è proprio questo, sì, no? Sì, sì, assolutamente sì. Si parte dalla sociologia, e quindi è un analizzare come siamo ora e vedere come potremmo essere in futuro. Sì, beh, anche perché quella branca di scienza lì è in grande sviluppo, abbastanza, perché non siamo andati negli altri pianeti fondamentalmente, sì, cioè giusto. Questa è la faccenda, se fossimo andati negli altri pianeti avremmo fatto il lavoro di colonizzazione, la fantascienza sarebbe diventata un altro tipo di percorso, ma essendo rimasti in questo pianeta, sempre più nella profondità dei sistemi di informazione di massa, cioè con i telefonini così, cioè l'ipotetico assurdo si restringe su di noi, perché in realtà lo spazio, l'universo, i viaggi interstellari interessano davvero molto poco. Questa cosa interessavano tanto negli anni 50-60 perché si era sicuri che dopo la Luna si saremmo andati altrove, insomma. Cioè adesso non ne frega quasi niente a nessuno di questa faccenda, c'è la ricorrenza quest'anno tanto dello sbarco lunare, ma io sono sicuro che se chiedi a metà di queste persone che sono qua, sempre meno tra l'altro, no parte il giorno, la teoria che non ci siamo andati sulla Luna secondo me metà va alla grande forte, cioè perché di fatto effettivamente ti viene da chiedere, ma siamo andati sulla Luna, e quindi 50 anni fa e poi 50 anni fa non c'è stato nient'altro e quindi comunque, ti viene da dire forse effettivamente non ci siamo andati sulla Luna, insomma ti viene da dire questa cosa qua. Vabbè, certo, poi ci sono le analisi a posteriori, avevano un senso politico di un certo valore. Sì, certo, no, c'era la guerra fredda, sai, una cosina da niente, insomma. Poi c'è, però insomma, se leggi Baldoni, se non sbaglio, insomma, l'astronauta ovviamente dice tutt'altro, insomma. Ci sono state 12 missioni sulla Luna, tecnicamente ci sono state un botto di persone lassù, insomma, almeno una trentina di persone ci sono state. Però finché noi non ci andiamo, finché qualcuno non arriva lì con un cellulare e non fa una fotografia a sta cazzo di bandiera americana, non ci si crede. E quindi la fantascienza in quell'ottica lì, in quel mondo, in quella prospettiva non interessa più. Per cui siamo noi. Fantascienza siamo noi in questa stanza, siamo noi in questo contesto, in questi luoghi, nella politica che non c'è più, che è diventata ormai una forma anche quella di fantascienza volontaria, insomma. Per cui sì. Poi vabbè, in particolare Black Mirror è una roba che è stata, insomma... Anche Philip Dick, nel senso... Però quella serie, poi c'è anche tanto adesso ritorno sulla serie, insomma, in sé. Black Mirror è stato sicuramente una serie che rimarrà come perno, anche come tipo di gusto adesso. E tanto, mi sono reso conto di una roba, che io non sono un grande appassionato di queste robe, però una volta per caso mi sono messo a guardare questa serie che si chiama Love, Death and Robots. Ah sì, l'ho vista anche io. L'ho vista anche te. Certo. In realtà ci sono un par di racconti qua che sembrano che tanto un plot di quella roba là, sì. E non me ne sono neanche reso conto, però effettivamente sì. Evidentemente mi è venuto naturale fare una cosa come se fosse una specie di strana serie televisiva in miniatura. Vabbè, sei stato, hai fatto qualcosa e poi è arrivato. Forse. Ma sì, è nei tempi, diciamo che è nei tempi. Se io avessi avuto dei mezzi un po' più potenti, magari ho una professione. Anche i soldi. Ma ah, certo. Ma non è così. No, ho un'altra questione legata a quello che dicevi tu, cioè della mancanza della musica in questo caso, perché sei un musicista e quindi dici come mai non ci hai messo la musica. Però parlare di musica nella fantascienza non è per niente facile. No. E quindi anche quello secondo me ci sta, perché come fai a già la musica evolve, no? In una velocità enorme, sì. E poi pensare e poi descrivere un suono, cioè. Ma c'è un libro, c'è una casa editrice che si chiama Zona 42, per chi interessa la fantascienza di adesso in Italia nuova, questa qua è la migliore secondo me. E hanno fatto in realtà un bellissimo libro che si chiama Propulsione di improbabilità, che raccoglie dentro un sacco di scrittori, tra cui, non so, Meacci, che è uno bravo. E c'è un racconto di fantascienza musicale, cioè è un ipotetico biografia di una rockstar del 2090, tipo. Che è quella divertente in realtà, cioè l'ipotesi così, una specie di mockumentary in futuro, insomma. No, ma si può trovare, in realtà si può trovare anche una chiave in quel senso lì. È proprio che nel mio caso specifico non lo so, di fantascienza a livello musicale ne vivo talmente tanta, cioè di cose assurde che succedono anche nel contesto, che alla fine non c'è neanche voglia di raccontarle. Tanto io, come dicevo prima, sto scrivendo un libro in realtà che è invece di natura giallistica, anche se è ambientato in realtà in un ambiente che potrebbe essere quello di una Toscana valdarnese, da dove vengo io, insomma, da dove viene il Santoni anche, insomma. Ed è ambientato in una casa di riposo in un futuro prossimo, quando ormai anche il cellulare ce l'hanno anche gli anziani, insomma, okay. Come sta succedendo adesso. E quindi in realtà è un po' una roba che la tecnologia, cioè la tecnologia pret-à-porter, questa cosa qua è una cosa che in realtà a me angoscia tantissimo. Sì, vede. Ma tanto proprio, sì. Sì, si vede. È una faccenda che non ce la posso fare, non... angosciante, poi ce l'ho. Ho una figlia per cui mi è toccato pigliarlo per vedere le fotografie di lei che cresce, però è una roba che, cioè, sono sicuro che poi tanto una volta che perderò sto telefono, che lo perdo di sicuro, io non avrò più una foto di mia figlia. Si è garantito al 90%. Che è quello. No, è così. È, cioè io ho ricordi delle fotografie in casa dai tempi dei miei genitori, io a casa era piena di fotografie. Cazzo di quadretto con il nonno, la nonna, così così. Adesso io, se vai nelle case della gente, non vedi fotografie. No. Non le vedi, non ci sono, perché stanno lì. E quindi vuol dire che non ci saranno più. È vero, pessimismo, ma è la realtà. No, sia pessimismo sia questa tua visione della tecnologia, soprattutto dell'oggetto tecnologico che entra a far parte della vita quotidiana, dal primo racconto, quello Body Dryer che si asciuga, che ti fa bene il cancro e che l'umanità si estingue. Esattamente. E da lì in poi, ecco, si traspare molto da questo libro che si trova, quindi in qualche modo comunque si trova, e anche veramente piratandolo, scusa. Sì, no, piratatelo, non lo so, fate che vi pare, fate quello che però vi pare. Però ci si diverte, anche se poi ti piglia un po' d'ansia, poi ti piglia un'altra volta e ti diverti, poi e quindi evviva. Anche i racconti brevi, tra l'altro, che sono un genere, anche se non sono un genere, sono una tipologia di... Tanto mi hanno detto nel 2017, quando l'ho fatto, guarda, è il periodo peggiore per i racconti. Bene, capito, lo faccio. Per cui sì, insomma, perché magari sì, se vi va cercatevelo, insomma, sì. Non le piscine termali, come? Ma le piscine terminali, anche da qui siamo riusciti a dire, ma è normale, lo so, è un errore che è quasi inscritto nel titolo, in senso. E se vuoi mandare altro, no, ma io vi lascio anche tranquilli nella vostra, nel vostro trip. Un pisolino. No, in realtà si andrà avanti con... io non so né che ore sono né cosa c'è nel prossimo appuntamento, però posso girarmi e guardare il programma. 18 alle 18 c'è l'educazione incidentale con Word. E buono. Non buono. So però l'orario. Che ore sono? Sono le 18:15, in realtà, esatto. Tecnicamente saremmo... Allora, si può smontare. Ti ringraziamo tantissimo, Enrico. Grazie a voi. Fa veramente un piacere. Spero che l'anno prossimo... Intanto sì, devi essere ancora tutti magari qua. Abbiamo un quarto d'ora, qualche domanda magari, se qualcuno vedi? Certo, giusto, non so se qualcuno vuole dire qualcosa o chiedere qualcosa, ma non c'è Samir, per cui mi sa che non c'è Samir. Senza Samir nessuno ha niente da dire. Eccoci. Sì, difficoltà per pubblicare. Ah, la difficoltà per pubblicare, ha chiesto una, per chi è in radio e non sente. Allora, le difficoltà per pubblicare sono enormi. Di fatto una cosa che potevo fare io da musicista, che sono un settore anche un pochino professionalmente conosciuto, per cui potevo fare leva su questa faccenda qua. Io ho suonato con gli After Hours, io ho suonato con Tizio, quindi pubblicatemi il libro, potevo farlo, eh. E in questo è un sistema che funziona, ahimè, ancora adesso. Per cui, appunto, dicevo prima, molti musicisti che conosco li pubblicano il libro perché sono famosi, perché sono a quel punto una fetta di vendita garantita per la casa, casa editrice, insomma. Cioè, se sei... lo insegnano i calciatori, insomma. Cioè, c'è una letteratura immensa dei calciatori, perché quelli lo comprano di sicuro. Nel mio caso, non avendo fatto questa operazione qua e avendo fatto in realtà un percorso attraverso una casa editrice che nasce da un magazine che si chiamava Parallaxis, che ha fatto quattro edizioni, erano appunto racconti che andavano da Kafka ritradotto, altre cose così. Siamo nella zona oscura, più oscura, più oscura, e la casa editrice, ho capito che funziona solo esclusivamente sulla volontà della persona che lo fa. Cioè, è tutta una roba per cui il ragazzo di questa casa editrice qua, se ha voglia e se deve sbattersi tantissimo, deve combattere. E se non c'hai voglia di combattere, ovviamente sicuramente non ce la fai. Ma anche combattendo non è detto che ce la fai, insomma. Cioè, l'editoria, ho capito, ecco, questo libro qua mi è servito molto per capire che l'editoria è a un gradino sotto di disastro rispetto a quella della discografia. Cioè, c'è la discografia che è un disastro, lo garantisco, sì, è un disastro. Poi sotto c'è l'editoria. Credo l'ultimo gradino ci sia la danza, forse. La danza credo che sia in una situazione ancora più precaria di tutto il resto. Però insomma è abbastanza un... Poi un'altra cosa che ho capito anche è che l'editoria funziona con cricche molto strette, per cui insomma anche il mondo degli scrittori è fatto di poche persone che da sole si autosorreggono e sì, che si autoalimentano nei circoli letterari fondamentalmente. Perché questa cosa genera interesse più o meno, però... È uno dei settori con meno chiarezza e meno probabilità di riuscita che abbia visto vita mia, insomma. Non voglio essere per forza catastrofico. No, ma in realtà è un discorso. Però l'unica cosa che puoi fare è fare delle cose in coscienza belle e che in qualche maniera tu nel tempo le rivedi con affetto e con... E con, insomma, col dire a te stesso: io ho fatto la cosa nel miglior modo possibile ed è stata la cosa che volevo fare, insomma. È l'unica cosa credo che ti ripaga, insomma. Sono perfettamente d'accordo, e è un ambito di cui parliamo ormai anche in questo festival. Abbiamo iniziato proprio parlando di queste cose qui, dell'autopubblicazione rispetto all'autoedizione, rispetto all'editoria indipendente, rispetto alle grandi case editrici. Quindi il mondo dell'editoria si è cercato di scandagliare, ne abbiamo parlato, e alla fine siamo qui a proporre delle cose che ci piacciono e che pensiamo che vengano fatte più o meno dal basso, o comunque abbiano dei messaggi, determinati messaggi. Non deve essere per forza l'autopubblicazione, non deve essere per forza la grande editoria, ma è tutto ciò che si pone con la realtà che sta intorno in modo o conflittuale o comunque dialogico, certo, in un certo senso. No, poi ci sono anche dei grandi scrittori, insomma, io penso Walter City, così, insomma, mi viene in mente adesso lui, che pubblica per grandi case editrici, Giuseppe Genna, insomma, che va benissimo in realtà. Cioè, se hai un megafono che funziona... Sì, ma anche solo anche Evangelisti. Evangelisti, sì, cioè, certo. I Booming, insomma. Insomma, gente che, esatto. È bene che siano in case editrici che li supportano nel massimo possibile, insomma. Esatto. Sono altre domande, questioni, interventi, brutalità? No. Sì. Dai. Sembra l'asta, tipo. Sei il microcenno dell'asta. Ok, no, niente. Okay. 500? Sono Anelli. 700? Ci salutiamo. Beh, allora ringraziamo. Ci salutiamo, sì. Ti ringraziamo. Grazie tanto a voi. E grazie. Spero di rivederci anche l'anno prossimo. Se scrivi davvero sto libro... Sì, sicuro. Anche se non lo pubblico, no, a presentare stesura, lo stesso. No, assolutamente sì, vengo anche col manoscritto. Dai, sì, infatti, viene anche col manoscritto. No, lo farò. Evviva. Volentieri. E con la ristampa delle piscine. E con la ristampa milionaria. Chiederò alla Mondadori, vai. Dai, fagli un po' di pressione. Ma guarda. Dai, evviva. Evviva. Allora, noi ci lasciamo per 5 minuti nella diretta e torniamo con La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro di Wolf Bukowski.